bella, ciao ciao ciao, una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore, partigiano, dammi via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire, la mattina alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.